Allora, raccontaci com'è la situazione delle lavoratrici OMSA e della manifestazione prevista per il 25 febbraio. Sì, la situazione è questa. Noi abbiamo deciso appunto di fare questa manifestazione a Mantova perché dopo un anno intero dove l'azienda è sempre venuta anche dai tavoli, soprattutto ministeriali, perché non sono soltanto parole, ma l'azienda ha presentato anche al ministero dei fogli timbrati da loro, dove si diceva che ci dovesse una riconversione, facendo anche dei nomi, hanno fatto anche il nome dell'IKEA. E dicendo che quindi ci deve essere la riconversione, ci sarebbe stata la rioccupazione della maggioranza delle lavoratrici, quindi oltre 320. Siamo arrivati a una farsa dove il 15 di febbraio ci siamo rincontrati appunto al ministero perché l'azienda doveva dare risposte concrete, dove abbiamo scoperto che in poche parole la dirigenza OMSA, Nerino Grassi, ha disconosciuto completamente quello che il suo braccio destro, Storchi, aveva fatto in tutto questo anno. Quindi dico dopo 11 mesi e qualcosa con l'aggravante che fra un mese, neanche, meno di un mese, scade il primo anno di cassa integrazione. La cosa grave è perché se entro il primo anno di cassa integrazione non vengono rioccupate 104 persone, il Ministero del Lavoro non ci concederà il secondo anno. E quindi è ovvio che questa qui è stata una cosa che ha, diciamo, è stata una presa in giro per tutti, in primis per i lavoratori, poi per il sindacato, ma anche per tutte le istituzioni, perché appunto, come dicevo, questa azienda si è presentata in questi tavoli ministeriali proponendo, facendo vedere dei colloqui, insomma, delle certificazioni dove c'erano degli interessamenti da parte di qualcuno. La cosa vera è che loro puntavano a un cambio di destinazione d'uso del capannone dove è l'OMSA, quindi fare un cambio di destinazione d'uso, quello commerciale, per guadagnarci di più. Quindi oltre alla beffa anche il danno, nel senso che ci hanno quasi riso in faccia quando hanno detto che intendevano chiudere, che non potevano fare diversamente, quindi hanno chiuso, chiudono l'OMSA non perché la Golden Lady è in crisi, ma soltanto perché hanno deciso di andare in Serbia. E poi adesso volevano anche guadagnarci cercando di spingere, di fare pressione anche sul comune di Faenza per farsi dare un cambio di destinazione d'uso, quindi riuscire a vendere quel capannone guadagnandoci anche. E quindi noi, anche se al Ministero abbiamo sì firmato un accordo dove si parla di incentivi, degli incentivi veramente ridicoli, 5 mensilità, abbiamo firmato degli incentivi che sono pari a 23.000 euro netti per le prime 80 persone che entro il 12 di marzo andranno volontariamente in mobilità. Tutto questo per riuscire a raggiungere quei famosi 104 persone come esubero e quindi riuscire ad avere il secondo anno di cassa integrazione. La positività dell'accordo però è soltanto questo, perché sul fronte del lavoro, di risposte concrete, non abbiamo niente. E quindi nonostante abbiamo firmato questo accordo al Ministero, noi verremo a Mantova, andremo a Mantova proprio per dover ribadire che la nostra lotta per il lavoro non finisce, nel senso che appunto questa azienda si è anche dimostrata poco affidabile se dopo un anno ci dice che non sapeva quello che il braccio destro faceva, sapeva quello che faceva il sinistro. E quindi noi non pensiamo assolutamente di essere d'accordo e quindi unitamente, un'iniziativa sindacale unitaria insieme alle lavoratrici, si è deciso di fare questa manifestazione perché noi chiediamo un accordo credibile di riconversione sul sito faentino e deve essere un accordo che deve essere chiaro, credibile e garantito, in grado anche di recuperare tutti i lavoratori.